governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi fiature alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Questo che avete appena sentito è l'annuncio letto da Pietro Badoglio alla radio l'8 settembre 1943. In quella data cominciò per l'Italia un periodo storico che, per parafrasare D'Azeglio, disfece l'Italia ma fece gli italiani. Almeno questo si è creduto per 60 anni esatti, perché proprio a distanza di ben 12 lustri da quegli accaduti, ardenti come fiamme, si sono riaccese le polemiche su quella che doveva essere la memoria condivisa dell'Italia. Il 25 aprile del 1945 i partigiani liberano Milano dall'occupazione nazifascista. Con questa data, che da allora simboleggia la liberazione dell'Italia, si conclude il processo che pone le basi dell'Italia repubblicana di lì a venire. Abbiamo chiesto al professor Guido D'Agostino, docente di storia moderna alla Federico II di Napoli, di valutarne l'impatto sul territorio nazionale. Io ritengo che il processo che si apre in Italia dall'8 settembre del 43 e si conclude il 25 aprile del 45, è un processo che riguarda ogni angolo del nostro paese. E a questo processo ciascuna parte d'Italia, anche la più piccola, diciamo, ha dato il contributo che poteva dare in considerazione delle circostanze, delle particolarità locali, delle tradizioni politiche, eccetera. Quindi il biennio 43-45 riguarda tutti, indistintamente tutti. Dopo l'8 settembre l'Italia si spezza in tre parti e anche la storia nazionale prende tre binari, come dire, tre direzioni, tre orientamenti, per cui ci si trovava a vivere nel Mezzogiorno, o ci si trovava a vivere nel centro Italia, o ci si trovava a vivere nel nord Italia. Nello stesso momento, nelle stesse settimane, negli stessi mesi, viveva esperienze molto diverse. Basta pensare alla Repubblica di Salò al nord e alla invece ricostituita monarchia sabauda senza Mussolini e senza il fascismo, dunque come se si fosse trattato di tre paesi diversi. Io in maniera un po' provocatoria, devo riconoscerlo, dico che il fascismo è sceso dall'Italia del nord verso il sud, l'antifascismo ha fatto il cammino inverso, è risalito a partire dal Mezzogiorno e poi si è diffuso in tutto il paese. Avanguardie della Quinta Armata sono entrate a Lodi. È probabile che gli anglo-americani possano essere a Milano in giornata. Intanto le voci di una capitolazione totale delle forze armate tedesche in Italia si vanno sempre più confermando. A Rovagnate, patrioti della brigata Adda hanno arrestato Farinacci. Al momento dell'arresto si trovava su un'automobile militare germanica in compagnia di un maresciallo tedesco e di due donne. Farinacci è stato accompagnato a Vimercate al comando della brigata Adda. We'll be right back. proviamo a seguire il percorso tracciato dal professor D'Agostino, partendo dagli eccidi che colpirono le popolazioni civili del sud d'Italia ancora prima dell'8 settembre 1943. Lo facciamo con Gloria Chianese, che lavora alla sezione storica della Fondazione Giuseppe Di Vittorio. Il primo eccidio fu compiuto addirittura prima dell'8 settembre in Sicilia, a Castiglione del Golfo. Poi man mano che dopo lo sbarco di Salerno la situazione si acuì e vi furono degli eccidi, appunto ripeto, che si concentrarono in particolare nell'area casertana, e di questi l'emblema è diventato l'eccidio, la strage di Caiazzo in provincia appunto di Caserta, dove furono uccise 21 persone. Perché furono paradossalmente accusate di aver fatto delle segnalazioni che avrebbero favorito gli angloamericani che avanzavano. Va detto subito che in molti casi queste stragi fatte dai tedeschi contro la popolazione civile nascevano senza che vi fosse alcuna possibilità di organizzazione contro i tedeschi, quindi nascevano molto legate a quelle che erano le esigenze della popolazione di garantirsi in qualche modo la sopravvivenza, e oppure nascevano dall'impossibilità di poter sopportare tutte le violenze dell'occupante nazista. Anche nel mezzogiorno queste violenze da parte dell'esercito tedesco, dico esercito perché la caratteristica fu che nel sud tutti gli eccidi furono compiuti dalla Wehrmacht, cioè dall'esercito regolare tedesco. Ecco, queste violenze nascevano dalla esigenza di avere l'assoluto controllo da parte della Wehrmacht del territorio per garantirsi una ritirata verso il centro-nord. E in realtà la popolazione veniva considerata alla stregua di nemici, e di conseguenza qualsiasi episodio di insubordinazione e di intolleranza non era assolutamente tollerato. La vita, l'albero, il pagliaio, la casa. Torniamo alla provocazione del professor D'Agostino per analizzare meglio quale fu la risposta del meridione all'occupazione. Il contributo specifico del mezzogiorno, a mio avviso, è molteplice. Per esempio, i tantissimi meridionali che sono andati a ingrossare le file delle formazioni partigiane, dovunque si siano formate. In generale direi il mezzogiorno, che vive questo periodo come una sorta di grande laboratorio, un laboratorio politico e sociale, in cui diciamo avvengono in maniera anticipata cose che si sarebbero poi diffuse in tutto il resto del paese. Penso per esempio ai primi CLN, penso a una classe politica che deve rodarsi velocemente, rapidamente, acquistare anche un ruolo a livello nazionale, perché poi nel mezzogiorno c'era l'unico regno d'Italia riconosciuto a livello diplomatico internazionale. Ecco, insomma, mi sembra che il mezzogiorno sia stato tutt'altro che assente. Poi, quella che io chiamo la scelta istintivamente politica giusta sulle cose da fare in un momento tragico. Non ci dimentichiamo che Napoli, per esempio, insorge il 28 di settembre contro un esercito tedesco che era ancora, probabilmente ancora pensava ed era in grado di volgere a proprio favore le vicende della guerra, dunque non era un esercito che si era indebolito o che era in via di smobilitazione. Poi le lotte, per esempio, in tutto il mezzogiorno dei contadini per la conquista delle terre, perché c'era anche questa componente di rivalsa, diciamo, antica, proprio legata alle condizioni di un sud prevalentemente agricolo. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. felice non è felice. È cessata la pioggia, la mia barba è bionda, la mucca non dà latte, Giacomone bacia Maometto, le scarpe mi stanno strette, il pappagallo è rosso, l'aquila vola, parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Dall'insurrezione del sud Italia si arrivò, dopo due anni di combattimenti concentrati nella porzione d'Italia a nord della cosiddetta linea gotica, alla fatidica data del 25 aprile. Tra i partigiani che entrarono quel giorno a Milano c'era Giovanni Pesce, comandante dei GAP locali dal maggio del 1944. Con lui non c'era invece la sua futura moglie Nori Brambilla, nome di battaglia Sandra, che in quei giorni era ancora prigioniera dei tedeschi per il suo impegno di staffetta partigiana. Il primo colpo va sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia, la prima volta ti fa male poi. Abbiamo avuto il piacere di sentirla per un'intervista. Signora Nori, come nacque il suo impegno nell'antifascismo? Io sono entrata subito nella resistenza, ancora prima del 25 luglio, della caduta del fascismo, perché vengo da una famiglia operaia antifascista e facevo parte di una piccola cellula clandestina del Partito Comunista in una fabbrica dove lavoravo, ancora durante il fascismo. Specialmente dopo avevo 16-17 anni, anche se non è che potevamo fare grandi cose, però lei sa che c'è stata una, anche negli anni, nei 20 anni della dittatura, c'è stata sempre un'attività antifascista portata avanti da comunisti, socialisti e altre formazioni. E quando venne l'8 settembre, che si costituirono si parlò di partigiani, io decisi di entrare. In un primo momento ho fatto parte di quell'organizzazione femminile così importante che riuscì a mobilitare migliaia di donne in tanti compiti, che furono i gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai volontari della libertà, che ebbe una grande importanza e un grande peso a sostegno del movimento partigiano. E in questa organizzazione ci furono quelli che, come me, scelsero di fare anche qualcosa di più e di entrare in una formazione armata. Io decisi, un giorno decisi e chiesi di entrare in una formazione armata e appunto mi proposero di entrare nei GAP. Si parla pochissimo della partecipazione delle donne alla resistenza. Quale ruolo avevate? Io sostengo sempre che noi donne abbiamo fatto altro che le staffette, che tutto sommato il vocabolario dice che sono un portaordini. Chi è entrato nella resistenza, specialmente le donne, hanno fatto un po' di tutto e di cose anche più importanti della semplice staffetta, che comunque era molto importante per tenere collegamenti tra i comandi e le brigate, i distaccamenti, le località dove era necessario collegarsi. Però spesso noi ci trovavamo anche in situazioni del tutto impreviste, nessuno ce le aveva addestrate e spesso si doveva affrontare anche con un po' di fantasia qualche volta. Quindi la partecipazione delle donne è stata molto, ma molto importante. Oltre che eravamo in tante, anche se di noi poco si parla nei libri di storia, ma le donne sono state davvero numerose, sono state centinaia di migliaia che hanno fatto tante cose. Lei vive a Milano, ma al momento della liberazione era imprigionata e maltrattata in un campo di concentramento a Bolzano. Come ha vissuto quei giorni di fine aprile del 1945? Purtroppo non ho avuto la gioia di essere qui nei giorni dell'insurrezione che avevamo tanto sperato e aspettato. Ero ancora in campo di concentramento, dove ero andata nel novembre del 44, e che poi il campo venne aperto dagli stessi nazisti il giorno 30, gli alleati ormai erano quasi a Trento, quindi loro dovevano anche tagliare la corda, dovevano anche andarsene, il comandante e le sue guardie. Sono stata arrestata nel settembre perché si era introdotto nella nostra brigata una spia. E infatti un giorno organizzò un'imboscata con nazisti, con le SS italiane e tedesche a Milano in Piazza Argentina. Andai io all'appuntamento con lui e mi arrestarono. Avrebbe dovuto venire anche il comandante Visone, anche Pesce, che per fortuna all'ultimo momento non aveva potuto, doveva fare un'altra cosa, andai io e presero solo me, perché naturalmente l'imboscata era stata preparata per il comandante dei GAP e sarebbe stato un bel colpo per i nazisti. Da Bolzano, che era un campo di transito, non era un campo di concentramento vero e proprio, e pare che dai dati, che sono comunque in difetto perché prima di partire naturalmente i nazisti bruciarono molti documenti, sarebbero partiti 11.000 italiani, quasi tutti antifascisti e partigiani, pochi ebrei, perché gli ebrei di solito dove venivano presi venivano mandati solo subito in Germania, e di questi pare che ne siano tornati nemmeno 4.000. E quindi e di donne, quando arrivai io eravamo un 4-500. Il 26 aprile venne nel nostro blocco un compagno che mi disse: Milano è stata liberata, sollevando in noi grande gioia e grande emozione. E in questo modo riuscii a saperlo. Furono giorni anche un po' di tensione, di ansia, perché tutto sommato non sapevamo come avrebbero reagito i nazisti. Qui Radio Milano Liberata. In nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo. E ringraziamo e salutiamo Nori Brambilla. Per tornare a quel meridione d'Italia da dove tutto era iniziato, per capire ancora insieme a Gloria Chianese, autrice di Come uscimmo dai rifugi, Il mezzogiorno tra guerra e dopoguerra, edito da Carocci, la portata degli avvenimenti milanesi nel meridione. Il 25 aprile è sicuramente una data che viene vissuta con intensità dalle popolazioni meridionali, perché significa in ogni caso la conclusione della guerra, la conclusione del conflitto in tutto il paese e la conclusione attraverso una vittoria definitiva della lotta antifascista e antinazista. Quindi sicuramente viene sentita con intensità, però all'interno, ripeto, di una realtà che in qualche modo era altra, era diversa da quella del Mezzogiorno, dove il dato più significativo era l'occupazione anglo-americana E questa occupazione anglo-americana era cominciata appunto alla fine del 1943 e aveva le caratteristiche di un governo che si configurava come diciamo un vero e proprio protettorato. Nel Mezzogiorno c'era il Regno del Sud, che però con il re, che però era di fatto una presenza non autorevole, perché le vere mansioni di governo erano svolte appunto dalla Commissione Aliata di Controllo anglo-americana, e i rapporti tra appunto l'esercito anglo-americano e la popolazione civile avevano molti aspetti del rapporto vincitore-vinto. Quindi un 25 aprile lontano, ma anche un 25 aprile vicino, che va comunque inserito in un processo complesso nel quale non va dimenticato che anche nel Mezzogiorno ci furono degli episodi importanti di resistenza, come l'insurrezione di Matera, come l'insurrezione di Lanciano, come le quattro giornate di Napoli. Resistenza che nel sud fu però una resistenza breve, si concluse anch'essa alla fine del 1943, ad eccezione, ripeto, dell'Abruzzo, resistenza che però fu quanto mai importante e che quindi va legittimamente inserita in tutto il processo di rivolta del popolo italiano contro nazisti e fascisti, e quindi in questo senso idealmente vicina al 25 aprile 1945. Dalla frontiera svizzera fonti ben informate annuncerebbero la cattura di Mussolini da parte dei patrioti italiani presso la località di Palenzo. Il maresciallo Graziani, dopo aver cercato inutilmente scampo in Svizzera, si è arreso alle formazioni patriote di Como. Sempre a Como, il segretario del Partito Fascista Repubblicano, Pavolini, si è asserragliato con un centinaio di camiciere in una caserma ed è strettamente assediato dai nostri partigiani. Fischia il vento. Fin qui la storia, ma il giudizio storico e politico sulla resistenza dopo 60 anni, da quel 25 aprile 1945, risente di almeno un decennio di voglia di revisionismi, che culminano nel disegno di legge proposto da Alleanza Nazionale al Senato, con il quale coloro che prestarono servizio militare nell'esercito della Repubblica Sociale di Salò vengono riconosciuti come militari belligeranti ed equiparati a quanti prestarono servizio nei diversi eserciti in conflitto durante la Seconda Guerra Mondiale. Un disegno di legge a cui opporsi, come testimonia Simonetta Carolini dell'AMPIA, l'Associazione Nazionale per Perseguitati Politici Italiani Antifascisti. Riteniamo che attribuire la qualifica di militari belligeranti ai repubblichini che hanno combattuto con i nazisti e hanno occupato l'Italia è una cosa veramente vergognosa, che viene meno rispetto sia al governo legittimo, che può piacere o non piacere, ma chiaramente era il re, Badoglio, tutti i partiti democratici che si sono poi tra il 43 e il 45 sia costituiti, sia usciti col Comitato di Liberazione Nazionale, sia contro gli stessi alleati americani e gli anglo-americani che erano a quel punto nostri alleati. E ricordiamo che l'AMPIA ha presentato una petizione contro questa legge, alla quale si può aderire dal loro sito ampia.it. Avete Avete ascoltato uno speciale radiofonico per il 60° anniversario della liberazione d'Italia dal nazifascismo, a cura della redazione di Amisnet, curato da Lorenzo Nania e Leopoldo Calabria, con la regia di Francesco Diasio e la consulenza di Giuseppe Masi. Gli audio originali sono delle Teche Rai. Ringraziamo e salutiamo i nostri ospiti Guido D'Agostino, Gloria Chienese e Simonetta Carolini, mentre un ringraziamento particolare va a Nori Brambilla e a chi, come lei, si è battuto per la nostra libertà.